bianco, vediamo un po'. Vediamo un po' se c'è qualcuno in ascolto. Natalino, Natalino! Guarda, tu sei? Sì. Sì, buonasera comunque. Sì, ciao Robè. Sto rientrando a Sassari dalla Brettella più in su della cintura dei pantaloni. Ciao. Ok, ti sta tenendo un po' di freschetto, ho visto oggi, l'hai vista la giornata, il giovedì, venerdì e sabato c'è addirittura neve. E difatti gli specialisti del clima hanno detto che la terra si sta riscaldando e non so che cosa, ma boh, qui nel resto del mondo sembra invece tutt'altro, qui sembra che si sta raffreddando, sarà, ma c'è qualcosa che non funziona. Addirittura dice le macchie solari, il ciclo delle macchie solari è modificato, dice che è il più basso negli ultimi 100 anni, qualcosa del genere. Assolutamente, il più basso in assoluto, mai vista una cosa del genere, non c'è propagazione da nessuna parte, addirittura c'è proprio sono dei fenomeni stranissimi, i venti chiusi e sono aperti in 17, una cosa pazzesca. Io che sono circa poco meno di 40 anni in radio non ricordo un periodo così negativo, mai, in 40 anni sicuramente il periodo peggiore. E non so cui, non aspettate che altro che quello della propagazione, voi la diamatura è sempre quello, poi ogni 11 anni non è così, sono il ciclo dopo 11 anni, addirittura dice quest'anno c'è una cosa inspiegabile, non si capisce per quale motivo, per quale movimento, per quale flusso di qualunque altra cosa ci sia stata questa modifica. Non ci sono più esplosioni sulla cresta solare. Sono molto inferiori, ma di gran lunga inferiori rispetto ai minimi conosciuti da quando si fanno degli studi, ma speriamo che questo cambi e che ritornino le cose più normali, perché variazioni così sicuramente cambiano tutto, cambiano la terra, cambiano il modo di vivere, cambiano gli animali, cambia la natura, tutto cambia, tutto si modifica e ovviamente si alterano degli equilibri che sono presenti. E poi noi per la radio, prima bastava poco per fare il giro della terra, a qualsiasi ora sceglievi la frequenza dove seguivi un po' la grey line, la linea della luce e via. Invece adesso puoi seguire quello che ti pare, tanto è chiuso. Bravissimo! Ciao Gianni. Comunque Marco, io ho sentito una trasmissione alla televisione, stavano facendo degli esperimenti gli americani e i russi in Antartide, non so se l'hai sentito, a frequenze ultrabasse, con potenze megawatt allucinanti, stanno modificando tante di quelle cose che neanche ci immaginiamo. Bellissimo, sì. Ciao Gianni. Carissimo non entra più. Prima era sempre carissimo. Allora sempre carissimo. Non si sente più, non viene più. Ieri proprio l'ho punto a carissimo. Mi ha detto che già c'è sempre tu. Vabbè, mi riferisco al Diabolic, che sento sempre invece dalle altre parti. E così, stanno provando tutto, sia in basso sia in alto, ormai, e anche nei testi d'esame mettono il laser, ma io non so, vabbè, lì sono campi talmente particolari, bisogna veramente conoscere quelle cose per quello che è certo è che le cose che si facevano prima non si fanno più, o è molto più difficile. Va bene, io ormai sono già verso la parte alta, qui l'aria è ancora già di montagna, io si in giro, in compagnia cantante. L'antenna Gianni, rientro verso Sassari. A te Gianni con la buonasera, Marco Scorsino, Roberto Quadrato, vai. Un attimo Marco. Nazzari, ciao, dimmi. l'altro copiato in digitale all'amico tuo, quello che hai appunto ieri, ha copiato tutto. Che non è, stiamo in radio battagliando, guerreggiando, ma la corona è a KD, la corona è su, all'uomo del monte, in cima, Filighetto, KD, number one, in 10-15. E lui guerreggiando in 80 ha esploso la stufa, è stata in aria, fumata bianca con accordatore annesso K. Era un po' di anni che non incendiavamo qualcosa, ma già ci siamo riusciti, tutto spettinato, annerito, con i capelli dritti, fischiettando, girando i Jennings, le manopole dei Jennings, puff, mamma mia, le risate, guarda, indescrivibile, non è può la vita, adesso chissà che cosa si inventa per contrastare, vabbè. Guarda che forse c'è Gianni Natali, fai girare. Avanti già. Buonasera a tutti, ciao Marco, ciao Roberto, ciao Natalino, ciao a tutti gli altri amici che sono in ascolto. Marco, ieri mi stavo ascoltando, ero pisciato dalle risate mentre lui raccontava che praticamente stava accordando e poi gli è partito l'apparecchio. Aumenta sempre di più, boom! Ero pisciato, guarda, peccato non potevo entrare. Ma guarda, nel momento delle prove, cioè, sono stato 15 minuti, 20 minuti che arrivavo veramente le lacrime, anche perché lui tipo Pino dei Palati, girando, fischiando, eccetera, eccetera, quando ci hanno dato il rapporto uguale in 80 metri, ovviamente, cosa ho fatto? Qualche volta lo faccio anch'io, ma cerco di rimanere sempre entro i limiti, ha aumentato il pilotaggio della valvola e è saltato tutto in aria. Oh, yeah, che fastidio. Vabbè, comunque, ci siamo divertiti. E adesso continueranno le battaglie, 10-15 ormai è vinta, adesso sulle altre frequenze, appena riprende un po' il bel tempo e posso rimettermi un po' a lavorare sul tetto, compatibilmente con gli impegni di lavoro. Va bene, l'antenna Roberto, allora, io sono già arrivato a casa, ascolto il vostro passaggio, vi saluto e sono un po' stanchino, anche oggi una giornataccia, a cena, e poi Zelig TV stasera, finalmente, vai Roberto, facci sognare. E domani, ho visto che c'è un pezzo di antenna, comunque, non so, era un po' che non salivo in quella zona lì, è una novità o è già da un po' che ho visto una cosa, una puro pesciata, manca un elemento, una cubica, qualcosa. E quella ormai è la cubica dei 6 metri, la 4 elementi di 6 metri, quella lì c'ho già tutto da parecchio, c'ho tutti i pezzi nuovi da rimontare. E c'è questo tempo, c'è troppo freddo, non si può lavorare, come fai? Sul tetto qui c'è da schiattare, anche le giornate che sembrano belle, c'è un freddo bestiale, non puoi stare arrampicato, lavorare, c'hai le mani che non anche coi guanti, ma non riesci a lavorare bene, non fa. Bisogna assolutamente aspettare che la temperatura salga un po'. Meno male, già le giornate poi si stanno allungando, anche perché quando avvii i lavori, cominci a portare su attrezzatura, ferri, attrezzi, cose eccetera, ci vuole già un'ora a portare tutto su, poi se devi riportare giù ogni volta è un caso, finché il tempo non è sereno e non fa un po' di caldo, non fa pensare a fare questi lavori dopo. Adesso poi il metallo è molto freddo l'inverno. E tu già lo sai. No, ti brucia, e poi non riesci a articolare bene le mani, no? Con la temperatura così bassa, no? Non lavori bene, ti cade tutto, cioè un casotto. un casotto, va bene, vai vicino, sì, si stanno circondando qua i radioamatori, a 100 metri ormai ce ne sono già tre. Già ci sono le 3 C500Z che... ci sono quelle che fanno un po' d'ordine. Va bene, Gianni a te l'antenna, vi saluto, buon rientro Gianni, buona cena a tutti. Marco Scorpion qui dall'alto dell'Everest in QRT. Ciao Marco, ciao, avanti Gianni, per i saluti. Kappa, ciao Marco, buon carica batterie, quando lo farai, mi hai sentito, io ogni tanto fate sentire. Io ogni tanto vi ascolto, quando vuoi accendo il ricevitore vi ascolto. Ieri, guarda, è stata una giornata bellissima, non ha fatto ridere troppo la storia. C'era Antonio Monteoro, tu e Walter, e mi stavate facendo crepare. Sempre così, oramai adesso poi gli animi si sono accesi e guerra, bisogna stare sotto controllo. Ciao, Nathalie, stacca lo stilix per stasera, basta, chi ha girato, chiudi tutto, ormai blocchiamo le piste e fai partire il gatto delle nevi. Già, c'ho già la mantellina io. Già, come che ti veda, con quegli occhiali tondi da montagna, tutto coperto con la pelliccia d'orso. Io qua ho dato disposizione, sono già usciti a battere le piste ai gatti delle nevi, fra poco non si può più passare. Ciao Marco, ciao. Il 20 era, ma comunque stasera. Io, perché mi ho messo quel programma lì, ricevevo una figata. Belle cose sono il PSK. Lo so, lui quando è qui da queste parti non c'ha antenne, allora deve andare in digitale. È così. Va bene, ciao, buon proseguimento, QRT, ciao. Ciao Marco, alle prossime. Ciao Marco, di sentirci alle prossime. Avanti Gianni, riprendi. Un attimino che c'ho il bocco in bocca. Riprendo dopo, dai, riprendo la persona. Adesso stasera lo configuriamo bene quel programma e vediamo se andiamo in trasmissione, cappa. Ma non penso che sia crepato l'apparato, Marco o qualche altro? Troppo. Sento la parola. No. Forse ci siamo sovramodulati, avanti. Ciao Roberto. Ciao qualche. Non ho capito chi si è spaccato l'apparato, Marco o qualcun altro? Walter. Ah, pensavo Marco. E l'apparato? Altro che apparato ha crepato. Vabbè, secondo la seconda catena, dai. E via. Vabbè, quanto costa? Dipende da che valvola mette, se c'ha, se quello che valvola c'ha, già costa nei rinampi di una parata. 3CX500Z. Già vanno bene, dai. Se fossero state le 1500 era ancora un piccio. Ma queste sono 3000. Ma 3000 tutte e tre? Una Zulu. No, c'è una Zulu. Asco, fa la bravo, che tu non manco le conosci quelle. E mi ha fatto una valvola. La 500, ho detto, che modello è? Quella lì, 3C500Z, 3000 so. Non la conosco. Sto qui sente che non una giù. Prende, mamma mia. Deve essere, come ha visto che arrivavano pari, ha aumentato l'ingresso e... Ah, scusa, non ho capito Natali. Tu ecco, non ho capito, 3 valvole 500 di X, invece il 3 è il tipo di valvola. E allora? Ah, allora sì che è possibile, no, no, non può essere, perché se è a 500 sono a 500 valvole. Ho capito 3 di X 500, cioè che se avete 3 valvole è a 500. No, 3 CX 500 Z, C Charlie, non D, C. È possibile allora, ne ha una singola quindi. Infatti è una cosa enorme, capito? C'è una sola. Ma io ho capito un altro codice. Ho detto, tre di quelle sono 1500 watt. No. Infatti, è meno male che era il piccolo, se era fatto quello da 6000. Ui. E vabbè, grazie dai subito. Sì, vabbè, ma sono così. Roba di uno. E ha spaccato anche l'MT3000, l'ha contato lei. salutato. Io mi salutavo con questa persona, dopo forse entra, ieri notte è entrato, non ci esito, se no avevamo fatto delle prove, c'è un segnale allucinante, Natali. Me lo posso immaginare. Ho un apparato vecchio, amico, non so, ma il campo vecchio, a me mi arriva 9 più 50, dopo quando capita in verticale ti racconto dei particolari, cosa ha fatto questo uomo. Sì, me lo posso immaginare, sì, vabbè, là, già in verticale già si parla meglio. Non c'è problema. No, io sono con questo apparato qua perché mi si è rotta la prolunga, mi sono attaccati le figlie e non ne avevo voglia, poi l'ho lasciata perdere, allora ho attaccato il microfono normale. Ma quando stavo utilizzando Marco, il gemello tuo, non è così, Natale? Come? Lo che aveva poco fa Marco, è macchina, il gemello tuo. Sì, sì. Io so quando te lo regoli, lui ce l'ha regolato perfettamente, hai visto come c'è bene, pulito, tranquillo. E perché io non l'ho regolato bene? Ma qualche volta Natale Blu 2 esce il paperino. Ma cosa paperino? Addirittura ci ho attaccato il tarmetto più 2, se lo senti adesso le senti le matracche. Dai, tu fai la regolazione per la banda laterale, poi quando lo usi in M te ne dimentichi, esci male, non esci come dovresti uscire. Non è quello. Cosa non è quello? Non è quello. Quello che mi... perché quello, questo qui, quello che stai dicendo tu, quello lì ce le ha tutte separate, è tutto regolato quello. Se lo senti adesso ti metti le mani in testa. Ma allora ho sentito qualcos'altro. Hai sentito qualcos'altro, sì, che me ne dimentico, è logico che sto male. Perché ho le impostazioni per la banda laterale e quando vado in AM è logico che esci male. A parte che tutto messo male. Io adesso lo metto qua, aspetta, te lo faccio sentire già meglio. Se facciamo entrare a Franchetto, avanti Franchetto. Ehi KK, sto ascoltando. E tu l'hai trovato, l'altro microfono ancora. Perché? No, mi sembra diverso di radio. Ah no, sempre quello lì. Sì, ma come piaceva a me? KK. Che è avanti? Break? Che è avanti? Buonasera, Massimiliano Bondolle, scusate, avevo messo una portantina perché stavo controllando il stazionario. Ciao Massimiliano, mi hai sentito in compagnia mia, di Franchetto, Natalino e poi c'era Gianni Martini, non so se ci sia ancora. Ciao Barroggio, ciao Franchetto, ciao Natalaus, ciao anche a te Roberto, che c'era anche Gianni mi ha detto, ciao Gianni, ciao tutta la ruota, facciamo una curiosità. Ciao Massimiliano. Ciao Massimiliano. Roberto, dimmi la carina. E questo è quello gemellino che ti stavo dicendo. La radio come va? Va bene, però mi sembra leggermente troppo spinto, la carina, basta per la pelle. Aspetta, adesso eravate in due o non lo so, non sono uscito. Non sono uscito. Forse avete parlato in due, no, adesso sì che sei uscito. Ah, cappa, questo è il camera più due, eh? Adesso esci, è una bomba. Sotto il quello il gemellino che c'ha quella persona lì. Capito? Una bella radio, complimenti. Cappa, adesso me ne torno con l'altro. O se no modulo con questo che si deve mandare. No, già va bene, anche se c'è la dire tipo si è preso, però mi ha detto non ci puoi fare niente, è l'avventurina. Basta allontanarlo un po'. Va bene, questo amplifica troppo. Aspetta che lo abbasso ancora, va. Lo abbasso. Bene, va così. Prova, vai. Prova 2 e 3. Va bene, ti ascolto anche quel leggerissimo ventolino là sotto. Comunque già va bene, dai. È troppo vicino, dai. Quando è troppo vicino è logico che te lo fa, perché lui quando tu schiacci è... Che sta sopravvolando? Tu sei fatto? No. E chi è? Avanti chi è? Stavo mettendo la portata alla Talaus. E mi due lo stesso, alla grande. Tu sei la taglia? Come? Sì, con questo. Non sono io, no, la portante stanno mettendo, qualche bastardo, figlio di mignotta deve essere. Parla bene, sennò già lo sai che ti metto a testa in giù io già, eh? E ti allungo un po' garizzo. E allora sono le buone importanti. Paco, se tu sei soldi, ragazzi, sono soldi, non è colpa mia, sono con 3 euro permesso. Ma se tu mi sovramoduli, è logico che quelli non passano io né tu. Vabbè, ciao Mari, buonasera. Io pensavo che c'era qualcuno che mi metteva la portata, capito? Perché bisogna che lasciamo un po' di bianco, se no è inutile, ci sovramoduliamo, l'ho sempre detto io. Ma sei sempre tu che sei prendere un bel che pongo con Cosio, con Roberto, non fate tempo a nulla che sei subito rispondente. Aggiornava uno di mezz'ora è permesso e tu non intendi, chiedo non intendi, l'altro non intendi. E non è colpa mia, no, se siete prendere un bel che pongo. Vabbè Maria, dai, non c'è problema, dai. Basta lasciamo un po' di bianco, io non ti ho sentito, Roberto non ti ha sentito lo stesso, forse per colpa del ping pong proprio, perché rispondevamo troppo veloce. Forse una volta parla bene, so che mi sono bene con la terra. Sono qua tutti e due, ma lo giuro. E io se ne fai tutti e due, non mi sono bene, è da quelli che va a essere di più quello che vuoi. E se non si carica già sotto, guarda, era buio. Ah, io sono più sbagliato. Avanti, comunque buonasera Mario, non ti ho sentito, se no non sai, non ci sono problemi. Avanti Massimiliano. Capo Arroggio, ciao Mario, buonasera, ben ascoltato. Avanti Falca. Ciao Mario, buonasera, ben ascoltato. Buonasera a tutti, siete in truppi, se no non faccio in tempo a salutare a tutti e mi allungo troppo. Va bene. Riprendi dalla Massimiliano con la buonasera. E sempre buonasera a tutti. Io la verità Mario, ho sentito solo la portante, questa portante quando modulava la talina, però io che ho chiesto il break, la verità non l'ho sentito. Se no, piano sale, sono il primo a far entrare la gente, quindi non è successo niente. Comunque Natalia, occhio a Mario, perché ti attacca il Billy, io ti attacco il cavallone, e non so quanto riusciamo a tirare. Ah, io ho fatto la brava, se no avevo un gran portante a vero, cazzo, attacco il mio, non avevo avuto di battaglia, non mi rompete i coglioni, che oggi ci ho le balle girate. Fate la brava, se volete modulare, moduliamo, e se no mi prendo tutto e me ne vado a coricarmi. Bravissimo! A me lo sento la buffonete, lo sento lui. Ma lo so, non sono davvero, se sono davvero, io sono davvero, allora basta. Allora rompici i coglioni se sei davvero, davvero. Cazzo, ora venga, sei tu che prima che fai un bel che pongo e da poi lo vedi pure male, e male se cazzo che non te ne accogliani più. Mario, scusa un attimo, Mario. Io. Dimmi. Allora, concludiamo l'argomento, non è successo niente prima che fissimo nelle camere di metro, non è successo assolutamente niente. Chiaro Natalino, da parte mia tutto ok, cambiamo argomento e parliamo di cose più serie, io li sono macchine. Allora Natalino avanti. Ma no, non ci parlo più, ma quello ti, tanto devo fare cosa, no, non me ne sbatte niente. Parlatevi tra voi, là, tanto è inutile, non si può fare niente. Però ma già buffonendo la virus. No, virus, non mi va più più, basta. Mi meravigli, dai, lasciamo perdere, dai. Continuiamo a parlare tranquilli, non è successo nulla di niente, anzi nemmeno ne va mi tempo più. Cosa volevo dire, Natali, ti volevo chiedere qualche cosa che mi sono dimenticato. Vabbè, dai, avanti Natali. Natalino, Natalino, buonasera e a tutta la ruota, i belli e brutti, avanti Natalino. Sono a Melarona, ti chiamo Natali. Natalino, Natalino. Sono troppo nervoso, non tempo, mamma, non capisci se stare se tu dov'è? Io capisco tutto, non c'è problema. Non c'è problema, io invece di che cosa sento? Redino, mio redino, no. Non ho capito di nome. Redino. Leonardino. E la Paola Antonia, Succis Inglesiere. Ah, ho capito, va bene. Comunque, buonasera, domenica, compagnia mia. Massimiliano, Natalino, non si sa se è vivo o se è morto. Mario, e fa che tutti i lanci a Mario, vediamo un po' se si conclude qua la studia. Cambio. Ciao, bocca, Luca. Arrivo. Il banchetto. vista, tutti quelli che c'erano qua. Io altro mi assento, vado a... Adesso vediamo, sto preparando una cosa da mangiare. Sto pensando un po' di patate fritte e via, va. Sono subito. Sappare, approfitto anch'io, faccio carica batteria e riprendo dopo. Ciao, tutta la notte. Ciao, tutta la notte. Buon proseguo, buona carica. E se coincide a dopo. Ciao. Mario. Quanti? Ma che mi scucci qua, eh? Alla grande. Io ho lasciato gallerie, bibiosi, fissi, carino, ci metti via. KK, ti ascolto benissimo, radio buonissima, segnale non hai in questo monumento, perché sei proprio nel fosso del leone. Sei copiato? Domenico, attento Domenico. Qualcuno che sta mascando? Attento Domenico, se mi ascolti. Pensavo che eri già quasi svincolo, anche perché io non mi piace accodarmi troppo agli articolati, perché sono troppo uniti in quella salita. Buonasera Mario. Buonasera a lei. Tappa che ci sono. Io ci sono sempre. Avanti, chi chiama Mario? Mi senti? Mi senti, Mario? Sì, io ti sento, forte e chiaro. Là, hola. Io ti sento, ma tu forse non senti a me, cambio. Antonio sono, Mario, mi sta dando qualche problema perché è un pochettino fermo questo apparecchio. Ah, Antonio, buonasera, ben entrato. Non lo so, io comunque ti sentivo bene, Antonio. Ma praticamente si cambia di canale da solo, hai capito? Ed è un pochettino fermo, poi dopo già si stabilizza. La pagliappa, allora tieni il parcheggio un po' acceso, se no mettilo sopra la stufa, così si scalda prima. Il caffè lo tengo acceso, lo tengo. Almeno non lo fa più. Cappagliappa, che apparato è quello? Intec Multicom. Multicom o Multicom? No, Multicom, Multicom questo è. Ah, anche quello lì c'ha il cambio dei canali automatico. Questo c'è il frontalino estraibile. Anche, come l'autoradio. K Roger. Deve essere il bellino allora, non l'ho mai visto, non lo conosco. È anche un po' vecchiotto, adesso, lo accendo un po'. È un po' vecchiotto come apparecchio, non so di chi anno sia. È il cappagliato, non lo conosco. Io ne ho conosciuto tanti dell'Intec, però quello lì non lo conosco con il frontalino estraibile, perlomeno non ne ho mai visto, dai. K, questo è digitale, c'è il frontalino estraibile. K. Come io di solito io uso sempre l'Intec tipo 50, che è il più che mi piace. Anche la gamba, comunque hanno sempre funzionato tutti bene, 548, 600, tutti quanti hanno funzionato sempre, diciamo, bene, discretamente, dai, qui, per la città era più che buono. Oh, perlomeno, per la città, io con quello lì parlavo da Alghero sino a Sassari e mi sentivano bene. Certo, non abbiamo mai avuto grosse pretese, però ho visto che ci ascoltavamo tranquillamente. Kappa, kappa. Kappa. Non so se lo conosci 550, 550 fa veramente bene. Non me l'aspettavo manco io da avere una radio che andasse bene, quello con l'eco che senti sempre. È tutto suo dell'apparecchio, il microfono suo, tutto suo quello là. Cartagliata, ti ripeto, non l'ho mai conosciuto quel tipo di apparato lì. È vero. Vabbè che quando ce l'hai non è che stai lì, no, questi qui. Io ho collezionato un po' con gli anni e ne ho un po' di tutti i tipi là. Niente, però con frontalino estraibile manco uno. Questo qua è una versione Multicom che hanno fatto. Era proprio per la macchina, dai. Una volta dentro il frontalino non funziona più. Beh, come l'ho tornato, tu il frontalino. Se non c'hai il preciso, col cavolo che lo accendi. Kappa. Fatto così. Ma adesso mi fa un pochettino. C'ha tutto mi, l'FM, la M, USB, LSB, tutto c'ha. Schiacci pulsante e vai dove vuoi. Non l'ho mai provato in banda laterale. Kappa, è difficile che se ci vada lì in banda laterale. A meno che non ci sia proprio l'occasione, se no non. Io ho provato anche in FM, catena FM c'è una bellissima modulazione, perché non c'è QRM, non c'è niente. Alcuni apparecchi fanno non basta mettergli lo squelci e fanno lo stesso. No, io un paio di volte abbiamo provato così a modulare in FM, però non c'era nessun rumore, nulla, niente, pulito pulito, bello, tranquillo. Oddio, poi capitano anche giorni che si sentirà il fruscio, non sto dicendo che non è vero, però senti meno rumore che nella M. Nella M c'è molto bailame nell'aria, si piglia tutto dietro, QRM è un altro, saprà modulazione da lontano. Invece in FM non ho notato che le più delle volte quando ho provato era sempre bella pulita la radio. Il K, soprattutto il K esce molto bene in FM. Non lo so, non l'ho mai provato, tutto quello lì non l'ho mai provato in FM, vedi? Allora, comunque. Oddio, ma adesso dovremmo portarli tutti dal dottore a fargli dare una pulitina. Il K dovrebbe uscire a pompa, addirittura se tu senti un segnale, cosa ne so, di un Santiago di Rove, dovrebbe arrivarti a fondo scala. Perché hanno una diversa ricezione con gli apparecchi lì. No, non lo so, non l'ho mai provato. Non posso dire né sì né no. Pier Paolo oggi non entra ancora. Boh, penso che sia intrapparato qualche cosa. No, io pensavo che era rientrato, era stanco e magari si è messo direttamente a mangiare. No, sicuramente è indaffarato, sta facendo qualcosa. Pagata, beh. Parrocchia. Cosa che andrà a sabato? Ciu-ciu. Sì, è appena martedì oggi. E non è quello del tempo per arrivare a sabato, no. E che se sono belle le previsioni con quest'acqua, è tempo cattivo, ne abbiamo sino al giorno 20. Comunque dovrebbe, a quanto ho capito io, dovrebbe fare molto freddo, a quanto stavano dicendo. Il tempo brutto è se stesso, dura sino al giorno 20, poi dice che ci sono delle punte che dovrebbe arrivare una nuova ondata di freddo siberiano. Sì, hanno detto così. Non si nesce più, no, Mario. Direi che quando viene la primavera, allora direi che c'hai anche troppo caldo. Già lo so. Quindi quando fa di più freddo, di più fa più caldo. Così dicono. Così dicono gli esperti. Mica lo diciamo noi, anche noi non siamo nessuno per poter dire è più caldo e più freddo. Allora, noi lo scopriamo quando ci arriviamo e diciamo lì, ci avevano ragione che faceva più caldo, però al momento noi non sappiamo niente, se è più caldo oppure se è più mite. Ma quest'anno diciamo che ha fatto freddo, pioggia, di tutto. Voglio vedere che questa voce leva tiracudini, cioè adesso che i bacini sono pieni, voglio vedere che c'è fio tiracudini in mare, che tiracudini hanno tutte gambe. Non sai che una scusa la trovano sempre, no? Che devono disinfettare i bacini, che devono fare quello. E se non metta ad esempio prima di sì, in modo che da qui rimane in sentiva. E allora, se poi fate la paga cara, puro. Adesso si rivenga. Ecco. vivo, così è purtroppo. Ma cosa vuoi che ti dica? Io mi auguro che almeno quest'anno non ce la faccio sudare quest'acqua, perché grazie a Dio c'è un eccesso di bell'acqua. Ah, adesso poi troveranno le scuse di fare lavori con qua e si accudono il mare. Sempre le scuse, però sempre là a pagare la gara, che da quello sono compreso nulla di sistema. E beh, l'acqua è per pagare gli operai che ci lavorano, sia per medicarla, sia per irrigarla, sia per quando devono fare dei lavori, tipo stazioni di pompaggio, quello, l'altro, capito? Caparrote. Sì, è così. Beh, ascolta Mario, dammi un segnale e poi lo rimetto a posto. Oramai l'ho già fatto girare, sono già un bel po' acceso. Cappa, allora da me mi stai arrivando un pelino Santiago 920 e la radio 5 è perfetta, pulita. Parroggio, dai. Ok, allora lo rimetto a posto, uso il mio, quello che uso tradizionalmente, dai. Vabbè Mario, bianco 5 minuti, dai, e attacco l'altro. E via. Ora, popolo della 27, com'è? Yeah. caricare, pensavo che avevi un po' l'appetito a mangiare, non a dormire. A dormire lo so che non ci vai a dormire. Avvedo, le vecchie querce non vanno mai a dormire presto. Non sono come le giovani querce che si dormono col microfono in mano. Fare due o tre, invece muratori a casa. bene o male devo stare in cappannone, perché se capita di dover portare qualche caldaia o qualcosa, devo essere sempre lì. E però, morale della favola, non abbiamo fatto un piffero. Cappa, vabbè. Invece io tutto il giorno a bagnomaria. E beh, cappa, e tu è diverso. Tu vuoi o non vuoi, ai negozi devi andare, portare, scaricare, fare, come Pierpaolo. Ci siede, va, consegna, poi torna a sedere, torna a partire, torna a consegnare. E niente, così via, dai. Vabbè. Simulatori quando piove si fermano, noi invece continuiamo a andare, sempre di continuo. Questo giorno ho caricato quella verdura per un negozio, caricato di barriata d'Eva, non mi dava auguri qui a uscire. Ehi, cappagappa, quando è così è brutto. No, diciamo che ci sono i muratori che sono intelligenti, che quando se il tempo è buono si lavora fuori per mandare avanti il lavoro, quando il tempo è brutto per non perdere la giornata lavorano dentro, a disarmare, a fare, a ripreparare per tracciare, per tamponare, travezzare, fare tutte quante quelle cavolate lì. Poi invece ci sono quelli che non sono abbastanza attenti e giustamente vedono gli eccettivi, allora lì è l'integrazione e perdi la metà dello stipendio. Anche qua è un lavoro che se piove i cantieri sono i più colpiti, non si può fare nulla, a meno che ci sia lavoro intero come dici tu, ma se ci sono delle strutture che sono già state fatte internamente, devi fare lavoro esterno, devi fermare per forza. Campo di positivo. Ripeti della Pierpaolo. Infatti, bisogna dico che dovrebbe esistere una legge che quando sta piovendo non si, tutti i lavori esterni non si dovrebbero fare. Allora ce ne sarebbe il riposo. Ma io parlo per quelli che lavorano esternamente sotto la pioggia. Perché non c'è una cosa non si può fare, cazzo, fare. E la razza è triste, la rucaglia, la pioggia, boh. E così è. Con i benifusi tutta la vita, tu magari bene o male, di una campatina a casa te la puoi fare, cambiarti e fare, ma io sono capo sudore, quando mi bagno tutto il giorno, tutta la mattina, tutta la sera bagnato, stamattina mi sono cambiato, sono tornato a casa e mi sono godurato i funghi del tuo gatto, da capo a capo. Sì, la campatina a casa faccio, è pieno di lavoro, faccio la campatina a casa. Mi cambio, esco, mi torno a bagnare, cazzo. C'è la borsa di una riata, vai, poi a casa. Gianni, ma non lo senti come sta parlando? A me mi pare che l'ha già mezzo pizzicato, gli sembra oggi. L'ha mezzo pizzicato perché è tutto rauco stasera, non c'ha quella voce squillante che aveva gli altri giorni. Cappa, hai già sentito via. No, ma Pierpaolo voleva dire, cioè quelli che lavorano come lui e come tanti altri che purtroppo come te, che si sali e scendi dal camioncino, però che bisogna infusi, boh, e te lo devi portare sino alla una se ti sei bagnato di mattina e la sera sino alla sette quando non ritorni a casa. E non siete mezzo malato, buono, perché l'aria non è che sia calda, l'aria è fredda, e non leva, è ancora più fredda. Beh, e non sai cos'è, che c'è il corpo che compensa, che aumenta la temperatura quando fuori è fredda, quindi compensa, diciamo ti scalzi. Oh già, non sai cos'è, per noi è una cosa per innescato allora, e tu sai che l'anno scorso ho fatto 2 mesi e mezzo con una brutta faringite. E stasera sono mal di gola di nuovo, perché soprattutto quando ci sono queste giornate, lo sai cosa c'è di più brutto ancora? Che quando tu scendi dal mezzo, freddo, acqua, entri dentro un appartamento dove ci sono 25-30 gradi di riscaldamento, riesci, è un colpo, lo sai, tremendo, è un'escursione termica. Io oggi ho avuto anche dei primi di freddo tremendi, tra l'umidità e queste ondate di calore, non ti dico che cosa è. Lo so anche io, perché a volte entro in negozio, c'è il condizionatore, c'è un po' per il calore in negozio, il magazzino si sta bene, tranquillo, poi vado a caricare e sta piovendo, come è successo stasera, che dovevo caricare un rollo di frutta, portarlo, frutta e verdura, portarlo in un negozio. Non mi dava ancora a passare per grilli, con i barri ad adeva mentre lo carichere, mi ha fatto chi la mera. Ecco. Vedi Mario, si è accorto anche della mia voce stasera. Capogliamo non accorto anch'io, mi seggando. Lo so, tante volte pensi di essere abituato, però il nostro fisico sembra che si riferra e a volte ti fai un fumo, quando ti prendi questi colpi d'aria e questi cambiamenti termici. È un casino, specialmente quando sono impatti di colpo, è così, senza fare un po' di anticamera, che magari vai dall'appartamento a caldo subito uscire al freddo, la pioggia, e ti greba su. Sono le esclusioni termiche, grazie micidiali, infatti così ma vado poi nel meglio la bandiglia. Avevi così mi cai, ma vabbè tanto, 3 mesi e mezzo l'anno scorso, ne farò anche 1 mese adesso, non sono sicuro che domani non c'ho più voce, ne sono troppo sicuro. Lo sai cosa dovresti fare adesso, che sei a casa, che sei al caldo, quando ci sarai anche cambiato sicuramente, perché non penso che ci abbia ancora gli indumenti bagnati, ti dovresti fare un bel bicchierino di latte con molto miele e magari un poco d'acqua fritta in mezzo, è vero, a saltarti la gola un po', è vero, magari ti fa bene. Mario, se bevo qualcosa io mi ricovero non per la gola, mamma che piccola seggia, sono a seme, io non ne bevo alcune cellule. Posso bene. Ah, non lo puoi bene, certo. E allora buonanotte, non saprei cosa dirti allora. No, io, la verità, se dovessi trovare pioggia come oggi, come stasera, dai, e mi dovessi bagnare quando arrivo a casa, anche prima di farmi la doccia, guarda, un bel bicchiere di latte, me lo callo, bello carico a miele e in mezzo ci metto anche un pochettino d'acqua vite, ma un goccetto è giusto per sgargalare la gola e niente, perlomeno a me non mi fa nulla quello lì. Poi giustamente c'è gente che non ne può bere, c'è gente che non può bere macolata perché soffre di gastrite e non è a tutti che fa bene il latte. Terra e ti guascia, amico, e beh, va veramente, quando piove, i lavori che devono stare in mezzo alla strada, meglio niente, dovrebbero fermarsi tutti quanti. Qui, al limite la portata. Dove ti sei ingaggiato io? Se morde. Però è morto, è proprio continuo, no, non si lascia andare. È vergognoso. Ancora è più malato di capo. E fa neanche fare la televisione. Ehi, vabbè, ma meglio non dargli peso, intanto mi Antonio la passa la grande, Pierpaolo la passa la grande, meglio non dargli goccia, e che se no magari dice, ehi, e pongo la portata e se lo ridano avanti. Ma sai cos'è? Che loro non ci sentono, capito? Perché a due passi da casa sua. Ah, così, allora compri a lui. Nella mette in recensione, capito? Ah, ecco, poi appa. Non so cosa dire. Allora, a questo punto, no, perché noi lo sentiamo benissimo a Pierpaolo. Non gli fa un baffo. No, ma manca Antonio, non li copre, compra a lui. Appa, appa. E allora, mi sono detto che ti sei fatta più di giro, eh? Ci si è fatta a tutti i giri lui ci voleva. Ehi, senza di casa ti va via, fuggi tutto qua. Campa campa. Carta di positivo, è un casino, cose così. Beh, non ce li hai uno di quei tipo K2, da metterci sopra in modo che non ti bagni. Già. No, c'è il giubbotto. C'è il bomber. C'è il bomber col cappuccio e cose, però poi sai cos'è, a furia di piove si inzuffano anche quelli lì. Prima scivola, poi piano piano si inzuffano, anche se metto felpe grosse sotto. E non è che il contatto con la pelle ci sia, però la roba che c'è addosso me la devo togliere, che oggi mi sono cambiato due volte, da capo a piedi, compresi mutande, cazzetti, tutto capo. Quello lì si sa, no, io non parlavo se c'avevi uno di quei K2, tipo quelli che si usavano una volta per andare in moto, che te lo mettevi sopra, che sono quei pantaloni larghi larghi, però sono in nylon, e non sono pesanti, sono leggeri leggeri, però l'acqua lì non passa. Io ce l'ho, due, li uso anche per pescare, quindi la notte quando c'è freddo per passare l'umidità. E già ce li ho, ne ho due completi di cose, di pantalone, di... Ma quello lì non copre, capito? Invece c'è freddo, mi copre di più il bomber che è bello piumoso. Sì, ma io non sto parlando di coperti, io sto parlando di mettertelo sopra come scorciacqua, capito? Per non bagnarti, perché se sei coperto bene sopra ti metti quello, ti avrai anche troppo caldo. Quello senza di dubbio. Quello quando io vado a pesca la notte me lo metto sopra per non passarmi l'umidità, no? E quando arrivo a casa sono tutto sudato perché non fa passare aria. Il K, bello, quello del K2 erano belli per quel motivo lì, perché non facevano passare né umidità e se piove non ti fa nulla, cioè non ti manco male di camera, perché io mi ricordo quando ero ragazzo che ce l'avevo, adesso gli ho tutti distrutti, perché un po' guardando in moto, un po' gli fanno la luce della sigaretta, gli ho tutti quanti distrutti. Ma con quello lì ti mettevo una bella verba sotto, è vero, e ti comprimi normalmente, poi ti mettevi quello lì sopra, guarda, un carro da mulino. e non ti bagnavi, è bello che non ti bagnavi niente. Lo so, io c'ho il camice sotto, se devo vedere il camice, non è come dici tu. Non è che io mi posso vestire come voglio, perché io quando arrivo in negozio mi devo togliere il giubbotto e stare in camice, quindi devo stare col camice addosso, capito? Quella lì è la regola. Sì, vabbè, quella lì è la regola. E tu che cosa fai? Quando sta caricando che vedi che c'è la pioggia, su, dopo fate passare per Marco. E' venuta, tu ti metti il K2 e poi sopra ti metti il grembiolino bianco o il camice bianco, però quando si mangia il camice tu mi devi di quella pizzorra, allora se pare l'attitudinato, però almeno tu rimani asciutto, cioè rimani più riservato, perché intanto la salute è la tua, mica di loro, allora non la frega niente. Vabbè. No, bianco grande di tutto, io viaggio blu. Io ce l'ho blu. Non bianco, bianco ce l'hanno i dottori. Avanti Pierpaolo. Capo, non sono riuscito ad ascoltare, sto mettendo l'importante. Supponiamo detto ti pirai. E un chirurgo parla. Operarlo, ma visto che tratti la metti in fremia e poi cucino molto picco di vecchia al cibo. Che paio passiamo 41 là? Cosa? Dai! Un 41 so. Certo, quando l'hai digitato che digiti GB KK Sassari, quando ti dai lì, se sei quello giusto, dici di vela. Di vela? Certo, certo, quando tu dici di solo, GPKK Sassari, quando ti appare la pagina, non ti appare la pagina, ti dice di vela, se c'è scritto di vela è quello giusto. E il rivestimento ancora, però devi essere iscritto su Facebook. Se vuoi puoi farti iscrizione direttamente, perché siccome è dedicato alla CP, puoi farti direttamente iscrizione come per esempio Massimiliano, nome Massimiliano di cognome Bulldozer, e fai l'iscrizione come la devi fare, poi chiedi il rapporto d'amicizia su CPKK Sassari, io stavo chiedendo a tutti di mettere la fotografia per esempio dell'apparato, o se ti piace la fotografia tua personale o del gatto. E se ti vuoi un bacio ce lo metti in cosa? Sempre meglio. Meglio qua, guarda come mi ci fa, non sai che pagare per fare questo, non è una cosa del nostro genere. Scusate, sempre teatro le mie uscite. No, io c'è anche la Cogliupa vicino. Vabbè, mettici tutto tu, dai. Tanto non ne vai, scherzo, no. Vediamo, vediamo. Perché per forza, perché l'hai fatta per forza lì su Facebook? Un sito o un altro non ce la potevamo fare, se la fanno su Facebook. Che cosa? Un sito da un'altra parte nostra, non ce la potevamo aprire, scusa, potevamo andarcene tutti su Facebook. E quella è da parte, è per CP. Ho capito, ma devi essere sempre scritto su Facebook. Capa. No, dico, senza essere scritto su Facebook non si poteva fare. Sì, ma sarebbe tutta una cosa, come ce ne sono migliaia, e questa è diversa. Va bene, adesso vediamo un pochino là. Comunque, chi c'è già iscritto qua? Non lo so, io sto aspettando. Nell'altro che avevo fatto di prova per la provincia di Cagliari, avevamo avuto 3.343 iscritti, tra cui tutti della provincia di Cagliari. So, che vergogna, sa se il cazzo non vogliamo fare, non volete fare niente. Provincia di Cagliari, napoletani, siciliani, qualcuno c'è nella provincia di Coso, di vicino Roma, Latina, mi pare due, di Latina, poi c'erano tedeschi, olandesi, francesi, via dicendo, 343 iscritti in 3 mesi. No, adesso vediamo un pochino, allora. Per qua. Chi cambia mazzelli, dai, la bozza va. Dai, ci sentiamo allora, dai, buonanotte, per qua, ti faccio sapere se la faccio l'iscrizione, là. Comunque, già si può entrare lo stesso per vedere un po' come la situazione. No, vi saluto a tutti con la buonanotte, allora, che tanto io che vado a usarla per forza. E ce la riascoltiamo domani se coincide, dai. 244 a tutti e buona nottata. Va bene, ok. Dico solo che c'è un presidente, mostrava i suoi apparati, le sue stazioni, si diceva un po' di tutto sugli apparati, su dove muovevano loro, antenne, cose qua, insomma, è una roba interessante, poi si giocava sulle cose normalissime. Anche normalissime, anche scherzi e tutto quanto. Va bene, vai, va. Buonanotte Massimiliano, ci ascoltiamo domani. Ciao, buonanotte Massimiliano. Ciao, ciao. Soprattutto, un bel ragazzo, bene. Allora, lascio qua per davanti l'iscrizione. Aiuto, falla. Dai, dai. Ok, ciao, buonanotte. Ciao, let's just kidding, no? Ciao. Aio. Aio, non c'è più. Cane, non c'è più. Adesso tutti sparisci, ma sarà rimasto sul 41. Guarda, 700 kg mi sembra che arrivi a 30 mega. E poi c'ho un Vigear, si chiama Vigear, un apparecchio molto in voga una volta, negli anni 70 addirittura, però non l'ho quasi usato mai, 644, e anche questo ce l'ho fermo, e bisogna ogni tanto, hai ragione tu, che l'accenda, alle volte non me lo trovo in ballazzo, perché se si scaricano i condensatori, addio, quindi adesso d'ora in poi ogni tanto li accendo, per salvarli, diciamo, più che altro, ecco. Comunque io ragazzi vi ringrazio perché adesso faccio il correttivo perché ho un'altra roba da fare, un impegno differente, fra l'altro io faccio il pittore di professione, quindi ho lasciato una roba sospesa, adesso che c'è calma lo riprendo. Ok, faccio correttivi, saluto tutti e a risentirci magari un'altra sera. Capa. Ciao Blanco, è stato un piacere, mi siamo trovato alla stazione di Gianni Campedulamuros, un grande appassionato, se hai bisogno di qualche cosa, di qualche schema, di qualche, io sono sempre con le mani tese verso gli appassionati, come te, come anche con Fulvio che lui c'è, diciamo, da tanto tempo frequenta, come Mario che sono degli appassionati che costruiscono, capito, questi imperi storici, a me fa molto piacere, io sono alla mano di tutti e di quello che posso fare volentieri tendo la mano. E avanti Mario per i saluti a Blanco. Ciao Blanco, buon poverdì, buon tutto e ce la riascoltiamo alle prossime. Sperando di sentirci in migliori condizioni senza compagni altri apparati, K-K, alla prossima, vai Bobo! Mi sono un amico, stavi bene, buon credito, buon tutto. Un po' da dire. Allora, cos'è come dato oggi Mario, di bello? Nulla, perché stava piovendo e non abbiamo combinato niente. Guarda che stasera ho acceso poc'anzi il 707 e niente, mi hanno detto che vado da picchi positivi e vado da picchi negativi e niente, e sicuramente mi hanno detto che granchi appena appena. Sì, proprio il magistrato speciale di difetto quello. Quando sono andato io, che se ti dico di bene, quando ho attaccato il microfono, ho bisticciato con tutti, perché tutti dicevano, c'era, fai schifo di radio, stai scendo male, non serve un cazzo con l'apparecchio che ti hanno dato, la fa zio, ma che era privato gli apparecchi che ti hanno dato, lo sapete che era difettoso, quindi non ci faccio neanche il caso di quello lì, Mario. Il difetto suo è che quando muovi che la braccia non lo accendi, dà dei picchi negativi, quando poi lo sistemi bene che dopo una volta che è acceso, lo metti, non dico ai massimi di volte, ma lo metti a metà, allora è perfetto, è la linea sua, capito? Sto dicendo io qualche tanti anni fa se ti dico di aver dato a me. Ecco, però da un punto a me che a me mi ha detto che stavo uscendo male, poi io ti dico che ho lanciato quel microfono nero, come si chiama, e c'è che c'è chi ce l'ha uscito bene, c'è che mi ce l'ha uscito male, e quindi so le cose, insomma, che sono preoccupate. L'unica cosa è la devo farmi dare la cosa, lo Stefano, come si usa la cosa da mettere sopra, quella delle mura, adesso non mi ricordo come si chiama la geccia. Comunque, una volta che è stato quello, poi c'hai tutto il coso a posto. Però insomma, il capo è stato tranquillo che non c'è niente. Guarda come mi asciutti, con questo ora, tanto braccio, così sto aumentando un'altra situazione. Se scendo male, fammi parlare al canale, se c'hai, non c'hai il watt, c'hai solamente il coso. Ma in banda, solo per il watt. Io mi sono la decisione, ma mi vado in questo 07. C'è scritto... No, adesso non lo ricordo. l'altra volta lo avevo fatto io, mi sembra che su circuito power, mi sono sbaglio, perché non la mettava, dicevo presente. Vabbè, lo lasciamo così, niente, dai, quando vieni tu le guardi, così se c'è la clielina mi ripulisci le schede, niente, le rimettiamo un po' in sesto, dai. Ma adesso sto uscendo col quello. E adesso sto uscendo dallo 7. Adesso sei stabile. Stabile sono. Adesso sì. Oh, a me mi hanno detto che vado a picchi negativi. No, forse sei stabile. Sentiamo 9, provazione 5 chiara. Poco fa avevo acceso che hai fatto un passaggio, non è che a picchi negativi. Partivi da 1 e si arriva al 9, poi sempre un tipo di banda laterale. E campano, e l'aspetto io adesso, l'ho acceso. E niente, tutto qua. Sentiamo KP2 se mi sente. Perfetto Mario, ti ascolto al 100%, veramente una buona modulazione in linea perfetta. Cappa, sono contento che anche con questo 07 della cosa, questo qui della IAESU, mi ascolti bene, cambio basso. Ok, togliere. Allora, stavo dicendo, quindi lo storno te lo compra forse Gianni. Vabbè, già sono qua, la roba me la porta qua. Chiunque lo vuole scegliere se lo prende, il primo che viene se lo porta via. Perché forse è interessato anche Fabio, perché lui è venduto il suo, ecco, no, mentre io sto a cena, dovrei servire a ritirarlo. Quindi il primo che passa qua, si tira la roba lì, che c'è. Poi il microfono tuo non si tocca perché quello è già prontato. E io la domenica, quella roba lì che era già fatto già mio, perché è successo dopo l'ascensore che non c'era stato tempo di fare la roba, hai capito? Però il microfono è costato quello lì. E capo, lì c'era tua benedizione, guarda se ci ha fatto male in quell'ascensore, guai. Possiamo ricambiarli, non c'è problema. si pigliano nuove, no, se ne parla più. Ok, io ho il microfono, siccome io ho l'altro posto anche col Carver così, deve essere anche quello lì, era tanto col Carver più 3. Va bene. Ho parlato con la sicurezza, non la dimenticare. Allora, secondo quel tipo che ho fatto il barattino io, che deve fare la cosa, la riparazione, non si è fatto vedere, allora lui a parlare con tuo che sto dando la tinta di quello con le 322, 70 euro. Capito? Perché mi ha chiesto anche oggi, io gli ho detto che c'è ancora la risposta che la parecchia non ce l'avevo, diciamo, a portarla di mano, cioè tutte queste scuse che ho fatto e però ho detto le farò sapere. Vedi, sì, perché ho trovato baracchino in pratica, si ha preso la parecchia, me l'ha bruciato, poi io gli ho dato l'altro. E tu usa questo provvisoriamente, l'ho chiamato già due volte, fa finta di nulla, perché la mercante, hai capito? Quindi a un certo punto si è preso per il culo, non mi piace più, adesso principale preso la piglia in culo, io non ci rimetto niente, ci ha rimesso lui, si tiene la tappa lì che è fatta. A me non me la può più nulla, perché uno aspetta due settimane. Se lui fa 4-5 io lo riparo, la riparazione la voglio pagata, ma non è paga niente. Lui ha pagato la parecchia, l'ha pagata per poco 50 euro, a me si è preso più di cui la parte lì. Quindi l'altro, quello che in pratica è riparato, che funziona bene, che c'ha le 322, lo 70 euro. E le cose sono a posto, adesso quello pure magari più numero di chiedi, adesso tutta carta me la può di tutta. Infatti, ma funziona quello come? Sì, funziona bene, tutto a posto, gli ho cambiato l'integrato audio, il condensatore è perfetto, non ho nessun problema. Sì, va bene, ok, il di Mario. Ehi, KK, arredo, e così è, non lo so. Se non ti sembra male Mario, può fare il fatto, adesso no. Sì, no, vabbè, 9 è poco, mi. Poco? Poco. Tu sei più forte che c'è, quindi non so che arrivi da quelle parti. Marco, tuo paro ci arriva con il tuo segnale la casa sua. Tuo paro arriva a te qua. Tu sei l'unico più forte che c'è, che arriva da quella parte. Ma se attacco il Galaxy arrivo più forte, mi. No, non è vero. Arrivi al tuo segnale. Quasi, no? Non preciso, però quasi. Arrivi 8 a qualche cosa. Costando qualche tempo, cosa mi sembra, se non mi ricordo male, la cucina è tornata 44, non di più. Boh, non lo so, io non ho toccato nulla perché quando vieni, siccome a forza di non usarlo, mi sono dimenticato un po' di cose. E così quando vieni lo vediamo assieme, così non sbaglio, capa. Sì, duro di dubbio, ti so più con gli uomini in te, a questo periodo. Comunque già c'è quello che svegliamo la memoria di super somma, però uno forse più ritardo io una settimana e non stavo facendo uscire in tempo. Chi mi usciva, chi diceva che uscivo male, chi usciva, diceva che uscivo a miraggio schifosa, eccetera, eccetera. Poi quando un giorno abbiamo messo la cazzo, la vetrina, sto sentendo un po' più, no, sto uscendo bene, mi ha detto. Capito? E poi guarda come va, quello che lottavo, secondo te va male, tappa, si strappava. E la mappa che viene attiva, invece se lo pilotato di sentire 15-20 volte, ci va perfetto. E a proposito, anche il chievo da me mi sta creando problemi, Pompù. Che è quello che lo so io, ma il cirurgiano che il cirurgiano di cose. E lo fa anche a me. Quindi mi stavo cirurgiano nel mio figlio, a parlare che tu il chievo di ritorno come prima. Cirurgiano, capito, che non... Poi è memoso e poi dopo era magari l'abbiato militare o qualcosa del genere, non lo so, lo convenza. Sono inchiorati, quindi bisogna fargli pulire col CVC. Già li puliamo assieme. Vabbè, quando è che vieni? Sabato passo da te. Vabbè, vieni tu o devo venire io a prenderti? Sì, mi hai detto per forza, stamattina ero vicino a casa tua, io perché sono salito lì all'ufficio di collocamento, ho giubilato leva, che se lo vento. Però sono contento, che faccio 10 anni di cosa, quindi dopo a posto. Pensavo di essere stato scancellato, invece ho 10 anni giusti, stamattina. Adesso spendo solo di essere fortunato a fare le domande e entrare subito. D'accordo, buon poco. K di positivo, andrà bene mela. E niente, vabbè, riprendi K2 e dimmi se mi ascolti sempre bene, cambio basso. Sempre a bomboletta Mario, qui arrivi sempre bene, non fa problema, già, arrivi discretamente. E niente, allora ti volevo dire una cosa. Per quanto riguarda quell'apparecchio che mi ha fatto vedere, io adesso domani, e cerco interessato, glielo dico che lo stai, che lo stai vedendo. Comunque, ma c'è un apparecchio che ti può interessare in quello spot, c'è un crisi valvolare con l'FO. Chi ce l'ha? Tu ce l'hai? No, Antonello ce l'ha in vendita. E Antonello quando ci vediamo già mi fa tutto presente, perché lui già lo sa che io come sono fatto, non ce n'è problema. Antonello a me lo interessa per la collezione, quello è un apparato da collezione. Io appena me ne porta, lo faccio bene, tu lo dice lo usa anche con le cose, si può provare. Passo per il porto con la roba lì. Dove ce ne stanno? Come c'è la tua macchina? Giuseppe, con l'argentino si è sentita. Io sinceramente non sono entrato con casa, sono andato nel metro da fa. E basta. No, sento solamente da Paolo e cosa? È Massimiliano, purtroppo, non sento nessun altro. Poi diciamo, c'è un po' di una cosa da una parte all'altra, cui uffici e cose varie stamattina non so come ha continuato, la verità. Ok, io la voglio mandare, ma perché la fate su questi canali alti, ma? Perché Pierpaolo ci aveva uno che gli metteva la portante e noi sentivamo sia Pierpaolo perché la passava, però Pierpaolo non ascoltava noi e ce l'avamo spostati sull'uno alto. E niente, poi è entrato invece quel ragazzo, il pittore per intenderci, quello di poc'anzi, e ha chiesto di spostarci su 40 perché poteva accedere l'altro apparato, perché con quello valvolare non ci sentiva bene. KK, tutto qua. E ok, Rogere, meglio, comunque la presidenza sta pigliando piede, adesso quando mi faccio un giro Siria, come il diritto, come vedi che la rimettiamo a posto, e anche a Poano bisogna battere a trovare a Francesco, a Spiricondale, se non la volare. Mi sa che io l'ho abbandonato a Francesco, perché poi mi ho sposato e sempre assieme. Quando ci si sposa un po' di libertà così, e non l'ho fatto per cattiveria, perché io sono diventato subito papà e non posso dedicarmi alla famiglia come. Non so, non ci vogliono qui per 2027, 5 siamo arrivati, ci vogliono. Ah, se un po' puro, 4, 5 più di caldo, però ecco, ma intanto ci si via, si attuvano una cosa volta a fare maniaci. E ok, no, no, ma fare perché mi piace di tutto per rimetterla in mostro, hai capito come? E niente, devo andare anche a Ucita a fare il condurino Antida, a fare il discorsetto, tu di nuovo lo conosco, una bravissima persona, però molte volte devo fare il coro, quando uno c'è un bicchierino dove stare fuori. Sì, vabbè, il torino è quello che lo conosciamo tutti. Cioè, se non c'è bicchierino buono, può anche fare vino buono, capito? Al limite può parlare tutto quanto, però non offende, e lì va bene. Però quando uno invece, quando fa, comincia a offendere, allora la cosa cambia. Però, la verità, se lo sai trattare come si deve, non ti parla male, perché io un'altra volta, a me non mi ha parlato male per niente, agli altri sì, ma a me no, e l'unico che sono mai commentato insieme a lui, e come è parlato tranquillo, figurati tu, quindi non lo so, dipende da come, se hai qualcosa guai, se invece allora sei tranquillo non ti offende per niente, anzi, sembra, cioè, rimane un po' così, Alberto, io andrei il secondo di 91, guarda, è di 91 l'Olimpiano, ogni giorno che non muova, ogni giorno che esce dal baracchino per salire di 91, permetto io il secondo di 91. Giovanni ci manca, sì, la verità, a me manca più che altro Giovanni Lucia che faceva compagnia ai camionisti, si dà di quel Manzano. Perché parlavo sempre con lui, poi un giorno l'ho conosciuta e mi sembrava di aver visto, quanti posso dire, il Messia. Certo, e poi non so come è successo, perché io mi ero fuori, perché Giovanni la frequenta, diciamo che l'abbiamo creata noi, e i primi fuori mesi eravamo noi, e niente, tutta questa passione poi è andata a risolversi come una di quelle quando fai le buone di sapore, però Giovanni ce l'ho sempre nel cuore, io non ci parlo perché non voglio disturbare a trovare, non ci parlo perché guarda, non lo so neanche io, però mi manca tanto che non sempre questa, di 91 era, guarda, uno dei primi, uno proprio che la frequenza ce la fa nel sangue, non so, Mario Manzi se ne era conosciuto, di 91 mi sentito mai Mario Manser. Io sono stato tanti anni che non me li ricordo tutti, festa che non mi ricordo più quelli che c'erano pensionati qua, che, cioè, che sono andati in pensione, e dei camionari, molti me li sono dimenticati, non mi ricordo più. Prima c'era Guido la Vespa, c'era Rosa Verde e ce n'erano tanti altri che non mi ricordo più, purtroppo. Ok, ma dimmi un po', Antonio, Vittorio Luna Rossa, che mi sono ricordato di iniziare, Vittorio Luna Rossa. Ha regalato tutto. E quindi non muoveva più. Proprio che ha regalato tutto, ha bruciato tutto, è entrato il fulmine dentro casa ed ha portato via tutto. Ma dopo lo sciocco via preso. Sì, sono modulati con Mario qui siete. Parlatemi una volta, non ho capito com'è. Ma dopo ha capitato lo sciocco, è diventato il fulmine dentro casa e quindi ha dato un conto via quello che ci è rimasto in pieno. Hai capito, quindi... Io lavoravo, se ti sei un fulmine dentro casa ti buca la cura, il tempo, se senti più a baracchino dopo lo stavo per una migliata. Mi dispiace molto, una persona veramente corretta, e guarda Gio Murato con Vittorio, che stavano con Mario Mauro, Gio Maria, e io sono Murato e mi dispiace di questa roba, però si può sempre, diciamo, risanare, e secondo però il fulmine come entra davvero ti sciocca e muore tutto. Io lavoro anche il capo dell'antenna qui, diciamo, non c'è molta roba come... però il cavo la corrente dell'attacco agli apparecchi e poi sul fulmine si chiede a parlare chi guarda e capito, mi dispiace molto perché sono persone che ho modulato e che mi dispiace non sentire più, ripeto, nel 91 sono veramente, non ci parlo a provare, sono ci passo di passaggio, come, però non, a Giovanni da tanto che non lo vedo perché non glielo devo dire io, perché non moduli più, non glielo devo dire io, perché era troppo appassionato, per quello lì, che era venuto il figlio a trovarmi in garage, ha detto papà c'è un sacco di apparecchi, però non glielo ho detto mai perché non modula più, capito, capito, non ha venuto a trovarmi. Proprio, ma che stai dicendo, Giovanni la Briccia? Quindi voi siete spaventati tutti, erano 27 dei paesi. oppure usi che ce ne hanno parecchi, avvisi altrettanto, muro sociale di K2, così posso dire. C'è una cosa che una cosa, adesso non lo non so io. C'è da Mandarino, c'è da Coso, Franco, ce n'erano tanti lo stesso, anche da Usini che modulavano. Come? Di Chiaramonti ti sto dicendo, se ti ricordi a Stella Polare. Sì, mi ricordate a Stella Polare. Ma poi c'era anche a Usino, sempre questo CP. C'era Vanni, cioè io parlavo tutta la Polinezza, già mi trovo due. Altri due che modulavano, non era niente prima, c'era anche la sola di cosa, di come vediamo si chiama, vendeva mobili, adesso mi ricordo il nome, comunque modulava anche quella, non è già sparita comunque. Quella è la Magatia. No, no, voglio farlo a Osso, Vanni c'ha due cosa, un c'ha un 25B, un 35 piccolo VFO. Mi sa che mi manca di Osino, dico pochino, cazzo. E c'era anche il paesano mio di Muroso che abitava a Osino, Giampaolo Montecarlo, non so se l'hai rimodulato. Ega, ega. Guarda, dico pochino era molto amico di Mario, perché pensicciava il peggio di me. E io che comunque a poi erano dei periodi, io adesso diciamo da mamma c'è un quaderno con tutti i nomi artifici, parlavo con il diretto, ci parlavi a poi. No, è chiedo, ma come se? A me sono andato un giorno, mi sono fatto il malattino, mi ha fatto pensare il babbo, ma dovevo scendere la sala, là, aspetta, la vendemmia. Avevo pensato il baracchino, c'era qualcuno sentiva anche la sassa e poi c'era anche il gente degli artisti, girava tutto, non mancava mai, arrivava in tutti i posti quando. Va, va a morire, c'è tutto mi mani. E la mia sicura, comunque questo qui c'è il PTT che non funziona tanto bene, a volte schiaccio e i LED non si accendono, a volte schiaccio e si accendono i LED, pum pum. Sì, sta scendo bene, perché lo usi poco, capito, è una maniera bella, vuol dire i cerecini, e guarda che si sistemiamo tutto. Sono contento, davvero, mio figlio mi ha detto perché non attacchi il 7B un po'? Il 7B bisogna guardare quel campo ogni cosa, mi sono altamente antipatiche quelle lamelle che le temo quando stanco le piante. E KK, vuol dire che le togliamo attentamente, piano piano, e nulla. Le diamo una pulizina col coso, con come si chiama, con la criellina, e mettiamo tutto a posto, si chiude tutto e poi si fa funzionare. Ripeto io a me, faccio quello di lì perché è già tardino, stavo cambiando la lampadina in camera perché la stasera è mancata la luce, sono saliti, c'ho la luce della lampadina. Ok. Saluto a Matteo, a Tomei, Mario e tutti gli eventuali ascoltori su 40, la capellù è base in quelle che si chiama data l'ora tarda per queste trasmissioni perché l'apparecchio è situato in camera da letto, quindi non si può diciamo andare oltre con le trasmissioni. Vi lascio a te, Antonio, lo ascolto il finalino e poi chiudo. Ciao Gianni. Ci sentiamo, mi raccomando, non fare come faceva un paio di cibi tanti, tanto può fare che siamo portanti, perché qua si sentiva con la faccia del ciucciù, Non ti preoccupare, sì. Ciao Mario, ti metto il cambio, vai. Ciao Capri, buon QRT, buon T. tutto, ci risentiamo alle prossime, buon lavoro per domani, e niente, da, tutto alle prossime, ciao ciao. Ciao, buonanotte a tutti, ciao. Ah, lì non trovo via del canotte, mi sono sentito che la porta solo con box. Io non dico quanto è ancora, voi di un raro. Non immagini mai. Sempre come adesso, sì, non c'è anche mai, no? È stata una cosa con le 22.50 davvero, Mario. Mi mancata, ma ricordo sempre. La volta che tu le sei e quando ero con il microfono a tavolo e ho lanciato il box, perché c'era il box, le 22.50. Scendo dalla... faccio la spalacchioccia, scendo giù, faccio col dito così. Ah, c'è la Rebecca, si è toccata. Io si intende tutto, se siete voi, se siete no. In campo dispositivo. Oh, già era una bella radio quella lì. Solo che ha fatto una brutta fine quella da 50. Sì, io ti preoccupare, già ho recuperato 250. Nuovo, da internet, ce ne sono quanti mia moglie di lì. La tenete tocco dal microfono adatto e... ha voglia e si possono recuperare le 22.50, ancora ce ne so. Ma sta dicendo Gianni? Ha volato nel ciclone, mi chiama le sue una pianotte. Se avessi avuto le 22.50 come se pigli con Vox, se avete parlato con il balletto, lo dico io. Perché io ho usato le 22.50, era un demonio. Dalla mansarda, non so se ti ricordo, da un divertito che abbiamo lì sopra, facevo da lì, quindi sono 5 metri più altri 10, a 20 metri sentiva perfetta la modulazione. Chiara, chiara, chiara. Ma come va sul bagno, non faccio dei capelletti, quindi si attacco un uomo su guai. Sentiva la catena, si sentiva la catena. Ok, vi saluto, buonanotte, ciao Mario, ciao Pomello, ciao, quelle vie si scappa. Gappa, ciao, ciao. No, ciao, ci vediamo alle prossime. Signori. Una cosa impressionante era quando schiacciamo l'acqua, cosa vuole l'acqua lì, fino alla volta che si schiacciamo le rive, infatti non utilizzavo quasi mai il box. Era pericoloso, ma la risposta mi dà, mamma mia, quanto ne sono portate di quelle schiaccate di cose di 2020. Gappa gappa, anda bene, anda là. Vabbè, pupù, allora, già ci sentiremo anche domani in radio, magari poco, ma già ci sentiremo. Comunque, per sabato vieni. E a sabato io sono andato così, quindi mi voglio parlare con i cervici e così li sistemiamo un pochino. Adesso domani mattina sono in via Piandanna, poi devo andare di nuovo lì vicino a casa all'ufficio di collocamento per sistemare delle cose. Poi domani, o venerdì devo andare a posto, quindi... io lo ce la faccio, venerdì è qui, però così non tutto c'è la mia tappa. Devo solo aspettare, pensiamo che adesso sono libero. Dopo, se domani vai all'ufficio a collocamento, per favore me lo fai. Volentieri. Ti dovresti chiedere in che posizione sono io, nella graduatoria delle domande che ho fatto. E poi me lo fai sapere. Io non posso dire al limite se ci sono stati le bandi per le domande, l'ultimo che c'è stato io ti dato da sì. Io ho fatto la domanda per i cantieri comunali e a vedere che posizione sono, tutto qua, niente di particolare, e poi mi fai sapere. Ma ora io adesso ti saluto che così mangio e poi mi curico là. E niente, si è fatto tardi, domani bisogna andare a lavorare. Va bene, domani ci passo e chiedo. Le domande per i cantieri comunali. E così chiedo io se c'è qualche domanda, me la faccio e vediamo un pochettino. Ok, a domani sera, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte, buon po'.